Il punto di Stefano Folli. Tutti si chiedono, e adesso cosa farà Monti? In effetti il suo profilo politico è cresciuto molto dopo l'annuncio delle dimissioni e non sembra che il professore voglia o possa ritirarsi a vita privata. Monti continua a incarnare la garanzia che l'Europa chiede all'Italia riguardo alla serietà delle scelte economiche da attuare oggi e domani, specie se il quadro generale dovesse peggiorare. E allora? È chiaro che la sua prima funzione è quella di essere alternativo alla deriva populista di Berlusconi. Quindi Monti, con la sua persona, potrebbe garantire appunto un fronte europeista che va dal centro al centro-sinistra con un programma di rigore e di riforme che però Bersani e soprattutto Vendola faticherebbero ad accettare. Oppure potrebbe presentarsi alle elezioni con una sua lista innovativa che si proponga di raccogliere consensi trasversali in nome dell'Europa, di quello che questo significa. È un'impresa difficile che richiede capacità organizzative non comuni, nonché lo stoicismo di sopportare le asprezze della campagna elettorale, ma è una sfida che cambierebbe lo scenario italiano.